Altra Europa. Sono 6 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia. Eccoci qua in diretta con l'Altra Europa, il programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Chiocciola Federico Taddia, mi trovate su Facebook e su Twitter, oppure chiocciola Euronet Plus R24, lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi una puntata speciale, una puntata interamente dedicata alla festa dell'Europa, la cui data è lunedì 9 maggio, però già nel weekend ci sono tantissime iniziative e noi apriamo la nostra festa in musica e lo facciamo con un artista che da domani avrà l'Europa come palco. Giro strade, vedo il mondo che mi passa in faccia, è il respiro più profondo che non lascia traccia. Steso in mezzo a un marciapiede di una città stanca, io sono l'uomo che non vede e che il vento schiaccia, chissà se chiusi gli occhi si vola nel cielo da soli. Se ritrovi la strada e le vecchie ambizioni e quegli amori che hai perso per non rinunciare ad uno stupido uomo che ha sempre altro da fare. La mattina in metropolitana è una gelida panchina da una settimana. Anche l'odio più profondo qui ritroverebbe il cuore quando l'ultima bottiglia non dà più calore, chissà. Se chiusi gli occhi si vola nel cielo da soli. E se ritrovi la strada e le vecchie ambizioni e quegli amori che hai perso per non rinunciare uno stupido uomo che ha sempre altro da fare. La voce e la chitarra è quella di Soltanto. Ciao e ben tornato all'Altra Europa. Ciao, grazie mille. Accompagnato dalla violoncellista Bruna Di Virgilio, protagonisti di questo tour europeo che partirà domani, ma ne parleremo poi nel corso di questa puntata dedicata alla festa dell'Europa, e mettiamo proprio l'Europa al centro, lo facciamo con il prossimo ospite. Abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Buongiorno Boldrini. Sì, buongiorno a voi. Buona festa dell'Europa intanto. Anche a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Presidente, che significato ha oggi questa festa? Oggi ha un significato più profondo che mai, perché oggi l'Europa vive un momento di crisi senza precedenti, e la crisi viene dal fatto che l'Europa non riesce più a dare le risposte alle grandi sfide che si trova davanti. Abbiamo visto come la crisi dei migranti non ha trovato una soluzione all'interno dei 28 Stati, e dunque si è cercato di demandare la soluzione del problema dei richiedenti asilo a uno Stato terzo, cioè alla Turchia. Questo è stato un segno di grande debolezza per l'Europa, e io mi auguro che sia anche una brevissima parentesi, perché non posso accettare veramente l'idea che tra i 28 stati non si arrivi a un accordo su come gestire quella che poteva essere una situazione assolutamente gestibile e non doveva mai diventare una crisi, perché lei capisce bene che 1 milione di richiedenti asilo che arrivano in un continente di 500 milioni di persone è lo 0,2% della popolazione. Il continente più ricco del mondo, del pianeta, non può andare in tilt per un afflusso di questo genere. E dunque mi sembra doveroso che si ricominci a insistere. Fa bene la Commissione europea adesso a proporre altri meccanismi in cui appunto gli stati dovranno in qualche modo essere multati, pagare se si rifiutano di fare il loro dovere come da impegni già presi in sede di Consiglio europeo. Certo. Quindi quest'anno vuol dire festeggiamo l'Europa perché la vogliamo salvare e per salvarla la dobbiamo cambiare per farla diventare più forte, un'Europa più integrata dal punto di vista politico, più capace di dare le risposte a tutte le sfide. Una è appunto la presenza dei richiedenti asilo, ma il terrorismo, non ci sfugge la grande minaccia del terrorismo. Se noi continuiamo ogni paese a tenersi le informazioni senza comunicarle agli altri, noi non lo sconfiggeremo mai il terrorismo, quindi anche qui c'è bisogno di più integrazione politica, più collaborazione tra gli stati. Ma anche il cambiamento climatico, non è che ogni paese può adesso aspettare i propri tempi per ratificare l'accordo di COP21 e quindi chissà quando si arriverà poi alla ratifica dei 28 parlamenti, cioè intanto il pianeta ne risente e intanto aumenta il riscaldamento del pianeta, quindi ecco, voglio dire che per riuscire a essere all'altezza di queste sfide noi dobbiamo avere un'Europa più unita, più politica, più capace di essere un territorio unico, legato da un unico destino. In una recente intervista lei ha detto l'Europa è a pezzi, rilanciamo l'utopia dei fondatori. È ancora un'utopia quindi questa Europa? Guardi Federico, è ancora un'utopia, ma lei capisce che questo è il più grande progetto politico dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cioè è il più grande progetto politico essere stati capaci di mettere insieme tanti stati che per secoli si sono fatti la guerra, aver garantito la pace a milioni e milioni di persone, benessere, perché nonostante tutto noi continuiamo a essere il continente più ricco, quindi quella utopia è in parte diventata già realtà, ma perché arrivi fino alla fine, perché si trasformi in tutto il proprio progetto, in tutto la sua completezza, in realtà noi oggi dobbiamo fare un passo in avanti. È come se l'Europa fosse una macchina, non so come spiegare, cioè una macchina d'epoca, ecco, che ci ha portato lontani, è stata in grado di farci fare tanta strada, però adesso il motore non funziona più, quindi noi questo motore oggi lo dobbiamo avere più forte, più capace di fare strada, ma anche una carrozzeria più bella, che piaccia di più ai giovani. Quindi il progetto europeo terminerà nel momento in cui noi saremo riusciti a fare uno spazio comune, una cittadinanza comune, a sentirci parte di un unico paese. Quello che Spinelli, Rossi, Colorni, Hirschman nel 1941, questi giovani antifascisti, avevano pensato, no? Quando erano a Ventotene, il fascismo li mandò a Ventotene perché erano antifascisti e erano considerati molto pericolosi, e durante il loro soggiorno su quell'isola loro pensarono a che cosa poteva salvare l'Europa da se stessa, cioè come si poteva avere pace in questo continente e benessere, e immaginarono, progettarono gli Stati Uniti d'Europa. Ora noi siamo a metà strada, non possiamo fermarci, perché se ci fermiamo non abbiamo futuro come Stati-nazione, ognuno di noi da solo non sarà mai competitivo con i giganti globali che abbiamo di fronte. Quindi noi possiamo andare solo avanti attraverso quell'utopia, trovare l'energia e la determinazione per sconfiggere questo momento di crisi, per superarlo e per portare avanti il progetto. D'altra parte la storia dell'Unione Europea è stata sempre piena di ostacoli. Di cambiamenti, solo quando come dire, si realizza in 4-4-8, no? Un progetto funziona anche se riesce a rialzarsi dopo delle sconfitte. E io credo che l'Unione Europea è un progetto così valido che riuscirà anche questa volta a rimettersi in piedi, ma noi ci dobbiamo lavorare. Assolutamente. Costruire l'Europa dei cittadini, ricordiamo anche che appunto lei Boldrini ha voluto questa consultazione politica sul web proprio perché i cittadini abbiano la possibilità di dire la propria sull'Europa per avvicinare il palazzo ai cittadini, e sempre in questa direzione credo vada anche la giornata di domenica, la giornata di celebrazioni. Ci vuole dire in sintesi cosa accadrà? Allora, la consultazione pubblica online, sono 7 domande sul sito della Camera. Io invito tutti i cittadini a entrare nel sito della Camera e a rispondere a quelle 7 domande, perché è un'occasione per contare e per partecipare. Se le cose vanno male, quando c'è la possibilità di dire la propria, ecco, bisognerebbe coglierla, non ci si può solo lamentare. Quindi invito tutti a partecipare alla consultazione pubblica online. E poi domenica che facciamo? Apriamo Montecitorio a 800 giovani, ci saranno i rappresentanti delle istituzioni europee, il vicepresidente della Commissione Timmermans, il vicepresidente del Parlamento europeo Sassoli, ci sarà il sottosegretario Gozzi, la ministra Giannini e ci sarà anche Virgilio D'Astoli, che è il presidente italiano del Movimento Europeo, e ci saranno 800 giovani con gli insegnanti e le insegnanti a discutere di Europa. Dopodiché noi usciremo da Montecitorio e faremo una marcia europeista per i vicoli di Roma attraverso Piazza di Pietra, andremo fino al Campidoglio. Al Campidoglio ci sarà anche un momento musicale che peraltro ci accompagna per tutta la marcia, e poi nella sala degli Orazzi e dei Curiazzi noi premieremo i giovani che hanno vinto il concorso Diventare Cittadini Europei, e quindi ci saranno queste premiazioni. Perfetto. Buona festa dell'Europa ancora, Presidente. Grazie davvero per essere stata con noi. Grazie a voi e mi auguro che seguirete questa giornata. Lo faremo, sicuramente. Grazie. Arrivederci. Ci fermiamo, è il momento del traffico. Mi scuso per il ritardo. Poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Ancora l'Altra Europa, puntata speciale dedicata alla festa dell'Europa, il 9 maggio, ma non solo, come vi ho detto, tantissime iniziative. Guarda, la cosa più semplice è frequentare le pagine Facebook, i siti della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, o anche semplicemente Google, e ogni città sta proponendo attività molto belle. Noi ora rimaniamo a Milano e lo facciamo con Fabrizio Spada, il direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea qui appunto a Milano. Buongiorno Spada, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Allora, cosa significa promuovere la festa dell'Europa in una metropoli come Milano? Quali sono gli strumenti per farlo? E soprattutto, le chiedo subito anche questa cosa, un'esperienza come quella di Expo ha avvicinato un po' i cittadini a pensare oltre confine? Io credo che sia stata molto utile l'esperienza di Expo, perché ha abituato i cittadini, che già lo sono perché ormai viviamo in una società molto globalizzata, ma ha fatto vedere ai cittadini da vicino cosa significa mangiare in altri modi, quindi pensare in altri modi ed altre nazionalità. Anche l'Unione Europea aveva uno stand durante Expo che è stato molto visitato. Noi per la festa dell'Europa proporremo un tram che è frequentato dai ragazzi delle scuole, un tram della TM con i colori dell'Europa, che lunedì girerà in centro a Milano sostanzialmente. Sarà un'occasione anche per dare del materiale, spiegare quali sono le attività dell'Unione Europea a favore dei ragazzi e dei giovani. Quindi, insomma, le scuole al centro delle vostre attività. Vedo che c'è anche un'altra iniziativa proposta per il 13 maggio, sono sempre gli studenti. Esatto, sì, sempre con gli studenti, in collaborazione col Parlamento Europeo facciamo una giornata di intrattenimento e verrà ampiamente pubblicizzata, proprio perché riteniamo che siano soprattutto i giovani i maggiori beneficiari dell'attività dell'Unione Europea, perché hanno la possibilità di lavorare in altri paesi, di scambiarsi esperienze con Erasmus. È stato creato adesso anche un programma nuovo molto interessante, che è Erasmus per i giovani imprenditori, quindi anche chi ha un'attività autonoma può svolgere sei mesi all'estero per entrare in contatto con realtà diverse ed imparare anche nuovi modi per produrre. ec.europa.eu/Italy, questo è il sito della Commissione Europea, oppure la pagina Facebook. Spada, un'ultima domanda, è complicato parlare di Europa oggi? Diciamo che è più complicato che di qualche anno fa, perché noi viviamo da parecchi mesi delle emergenze pesantissime legate all'immigrazione, poi c'è una crisi economica che dura dal 2008 che ha molto esacerbato gli animi, quindi ha reso maggiormente intolleranti i cittadini verso tutte le istituzioni, quindi anche l'Unione Europea. Quindi far passare il messaggio europeo oggi è molto difficile, anche perché talvolta per i messaggi che erroneamente passano sembra che ogni sacrificio economico sia colpa dell'Europa e ogni beneficio economico sia invece merito dei politici e dei governi nazionali. In realtà non è esattamente così, noi viviamo in una situazione molto complicata e talvolta i provvedimenti sono necessari per non peggiorare economicamente il contesto. Grazie davvero Spada, buon lavoro e buona festa dell'Europa. Grazie a voi e buona trasmissione. E c'è chi ha scelto la festa dell'Europa per dare il via al proprio tour europeo, soltanto il basker che insomma dopo le strade di Milano, dopo le strade italiane, torna sulle strade europee che già ti hanno visto protagonista. Tra l'altro hai fatto da pochissimo un concerto a Bruxelles. Sì, esatto, ho fatto un concerto in un teatro a Bruxelles, il Teatro du Vaudeville, ormai 2 mesi fa, in cui ho presentato questo progetto appunto che era ancora in fase embrionale, in fase di assemblaggio, diciamo così, di canzoni inedite mie adattate in inglese, proprio in vista di questa esperienza in Europa che abbiamo intenzione di fare. E appunto invece poi recentemente è uscito il disco italiano, adesso porteremo la sua appunto versione inglese in giro per le strade d'Europa. Esatto, è nato anche questo tra Milano e Bruxelles, questo disco nuovo che si intitola Sky. Uh-huh. Si intitola Sky, in realtà non è la traduzione del termine cielo, ma è proprio il nome proprio di un'isola della Scozia, infatti è scritto SKYE, che è un'isola appunto scozzese dove mi sono ritrovato alla fine del mio ultimo viaggio per le strade europee e dove ho fatto un po', come dire, mente locale su tutto quello che mi era capitato in questi ultimi 3 anni, e lì le canzoni che erano nate proprio agli angoli delle strade di Bruxelles, di Praga e altre città che mi è capitato di visitare, lì su quell'isola con quella calma e con quei paesaggi sono venute alla luce, insomma. Siete qui con la chitarra, c'è il violoncello di Bruna di Virgilio, però adesso vi facciamo ascoltare un assaggio del CD, perché è giusto anche valorizzare il lavoro fatto. E quale pezzo hai scelto? E questa canzone si chiama Fermi il tempo, è la canzone che ha anticipato il singolo di apertura del disco. Lo ascoltiamo insieme. Sei la causa di tutti i miei problemi, e tu sei la sola capace di risolverli, e non son capace di stare ad aspettare. Se non ti dispiace, io cerco altro da fare. Ma poi ti siedi in riva al mare, spegni il sole, fermi il tempo, sei sola al mondo, allora dimmi che vuoi fare, non c'è tempo da sprecare, afferra la mia mano e inizia a correre. Sei la luce che ha smesso di brillare, e tu sei la sola capace di riaccenderla, e non son capace di stare qui a guardare. Se non ti dispiace, io smetto di parlare. Ma poi ti siedi Questo è il singolo proposto da Soltanto. Si parla di tempo, il tempo è una variabile, una componente fondamentale di questa Europa. E partiamo proprio qui, partiamo dal tempo per presentarvi Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo in Italia. Ce l'ha citato anche poco fa la presidente Boldrini. Buongiorno D'Astoli, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, grazie a voi. Allora, il Movimento Europeo in Italia, movimentoeuropeo.eu, ha proposto tantissime iniziative per ricordare Altiero Spinelli a 30 anni dalla sua scomparsa. E D'Astoli, chi era Spinelli? Spinelli era in qualche modo un profeta dell'Europa, è stato, io credo, il più importante rivoluzionario dello scorso secolo. La più importante rivoluzione dello scorso secolo è quella dell'idea di fare dell'Europa uno Stato federale. Credo da questo punto di vista è stato certamente uno dei padri dell'integrazione europea. Sarebbe arrabbiato oggi Spinelli? Sarebbe deluso? Sarebbe contento anche magari del percorso fatto? Beh, contento, alcune cose sono state fatte. Certamente sarebbe molto arrabbiato, deluso. Forse lui non era un uomo che si deludeva facilmente. Sarebbe stato costruttivamente arrabbiato, nel senso che avrebbe indicato probabilmente delle strade per far uscire questa Europa dalla crisi. Prima la Boldrini diceva rilanciare l'utopia dei padri fondatori. Era un'utopia quella di Spinelli e degli altri padri fondatori, appunto? Beh, all'inizio era un sogno, poi un sogno che in parte si è realizzato, nel senso che alcuni elementi federali nella costruzione europea ci sono: il Parlamento europeo eletto a suffragio universale, la Banca centrale, la Corte di giustizia, però mancano molte cose. La realtà di oggi mostra che ci sono tanti problemi che gli Stati nazionali non sono in grado di risolvere, e per risolverli ci vuole più Europa e non meno Europa. Sarete appunto domenica alla Camera dei Deputati per il corteo federalista. Il 9 maggio il film Un Mondo Nuovo invece sarà presentato al Liceo Spinelli a Torino. È stata appena inaugurata una mostra, se non erro, alla Torre Civica di Mestre, i padri fondatori dell'Unione Europea. D'Astoli, come si fa a tenere viva l'Europa oggi, oltre a queste iniziative assolutamente importanti, ma forse non sufficienti? Intanto vorrei ricordare che Spinelli non è ricordato soltanto in Italia, ma lo ricorderemo anche al Parlamento spagnolo il 23 maggio e alla Humboldt di Berlino il 25 maggio. Lo abbiamo ricordato anche addirittura in Argentina. Per tenere viva l'Europa bisogna fare un'operazione verità. Noi abbiamo lanciato un progetto che si chiama Processo all'Europa, in cui molte scuole italiane si stanno mobilitando per discutere dell'Europa di oggi, vedere quali sono le violazioni che sono state fatte del trattato e soprattutto chi è il responsabile di queste violazioni, che non è certamente la tecnocrazia di Bruxelles, ma sono soprattutto i governi che hanno in qualche modo fatto fare dei passi indietro considerevoli all'Europa della solidarietà, della libertà e della democrazia. movimentoeuropeo.eu, questo è il portale, ancora ve lo indico per conoscere tutte le attività promosse dal Movimento Europeo in Italia. Buongiorno D'Astoli, buona festa dell'Europa, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra. L'altra Europa. Eccoci qua, ancora in diretta con l'altra Europa in questa puntata speciale, puntata movimentata, puntata con tante voci, tanti ospiti anche in studio, non solo Bruna Di Virgilio, la sua violoncellista, ma ci hanno raggiunto anche due studenti Erasmus che stanno partecipando a questa importante manifestazione che si sta tenendo a Milano. Sono l'International Erasmus Games, sono una sorta di Olimpiadi tra Erasmus. Ne avevamo parlato alcune settimane fa quando si è tenuta la sezione italiana, diciamo, invece questa è quella europea. Do il benvenuto a Susanna. Ciao Susanna. Ciao. Studentessa polacca, giusto? Sì, di dove? Sono polacca, studio in Varsavia, sono di Siedlce. Uh-huh. E stai facendo l'Erasmus in Italia? Salerno, a sì. Salerno. Quindi tu giochi per la Polonia o giochi per l'Italia? No, io non gioco. Io sono venuta qua per supportare la squadra di Salerno, che è venuto in torneo nazionale d'Italia. Uh-huh. quindi sto sopportando Salerno che gioca come Italia, ma anche l'equipo polacco, che sono qua i miei amici di Polonia. Quindi fai il doppio tifo, insomma. Sì, sì. Okay. E poi invece c'è un atleta italiano, però gioca, se ho capito bene, per il Portogallo. Portogallo, sì. Aspetta che mi sono anche perso già il tuo nome, scusa. Mattia. Mattia, eccolo. E tu di dove sei? Io sono marchigiano, studio all'Aquila, però adesso sono Erasmus in Portogallo, a Porto. Ok, e quindi giochi con... Gioco per la squadra portoghese. Come funzionano questi International Games? Cioè, nel senso che, come stiamo cercando di capire, lo studente gareggia per la nazione dove sta facendo l'Erasmus. Esatto. Ci sono delle selezioni, quindi una volta scelti i 10 componenti della squadra, si partecipa a un torneo nazionale. Queste che si stanno svolgendo qui sono le fasi successive, infatti è il torneo internazionale, dove le vincenti di ogni nazione si sono ritrovate qui per un'ulteriore fase finale, diciamo. Perfetto. Un'ulteriore occasione per stare tutti insieme. Di questo ne parleremo ancora durante il corso della puntata, ma in questa festa dell'Europa, insomma, l'Erasmus ci sembrava doveroso renderlo protagonista. Anche tanta Polonia, appunto Susanna che studia a Varsavia viene a Polonia, soltanto domani tu sarai a Cracovia. Domani siamo in viaggio per Cracovia e sì, arriveremo in Polonia e a partire da lunedì saremo per le strade della città a suonare con il nostro caravan. E viene dalla Polonia anche la prossima ospite, diamo il ben ritrovato all'Altra Europa ad Evelina Jelenkowska, capo del settore stampa e media presso la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Evelina. Ciao, buongiorno. Volete parlare in polacco tra di voi? No, sennò ci sentiremo un po' esclusi, però insomma sarebbe anche questo. Come si dice per esempio in polacco, Evelina, festa dell'Europa? Święto Europy. Dzień Europy. Okay, no, è la giornata dell'Europa, okay. Più che festa. Hai messo un punto interrogativo come se lo stessi chiedendo a me, ho detto non ho idea. Allora Evelina, ti abbiamo convocata per invece scoprire quello che succederà a Roma lunedì, anche lì tante belle iniziative legate alla festa dell'Europa con i bambini grandi protagonisti. Sì, i bambini e i cittadini, perché secondo me questa è più che festa dell'Europa, è la festa degli europei. Questo forse bisogna, noi abbiamo voluto declinarla così, in piena sintonia anche con le altre istituzioni, con il Comune di Roma, con il governo, e abbiamo previsto questi due appuntamenti per i cittadini più piccoli e per i cittadini più grandi. Quello per i più piccoli organizziamo insieme al Comune di Roma ed è un evento anche un po' simbolico, perché abbiamo voluto donare a questa occasione delle nuove bandiere a tutte le scuole romane. È vero, perché ricordiamo che comunque la scuola, credo anche per obbligo proprio istituzionale, deve esporre anche la bandiera dell'Europa. Spesso sono brandelli di bandiera più che bandiere. Quindi avete... Esatto, quindi cerchiamo di rinnovare questa Europa anche in un modo simbolico, con i bambini che sono quelli che sono già gli europei, il futuro, e quindi... parlare con loro e fargli rinnamorare dell'Europa, che sicuramente questo è un po' il nostro problema oggi, iniziamo dalla scuola, iniziamo dai simboli e ci sarà altro rappresentante vicepresidente della Commissione, Federica Mogherini, a entrambi gli appuntamenti per parlare sia con i piccoli ma soprattutto anche con i grandi alle 11, perché questo appuntamento è a Campidoglio alle 10. Insieme al commissario Tronca, al sottosegretario Gozzi, ovviamente brevissimo perché i bambini hanno quella concentrazione che hanno, ma molto, come dire, pieno di colore, pieno di movimenti. Invece poi dopo alle 11 all'auditorium Parco della Musica è aperto a tutti, quindi invitiamo, perché è la festa dei cittadini, quindi lì vorremmo parlare la vicepresidente con presidente emerito Giorgio Napolitano, parleranno, risponderanno e rifletteranno con chi ci sarà, chi vorrà seguirci alle domande sull'Europa, ma anche sui principi, riflessioni sui valori fondanti, tutto quello che ha detto sia Pier Virgilio che la presidente Boldrini, insomma siamo molto in sintonia tutti su questo, che vogliamo rilanciare questa Europa. La festa dell'Europa, quindi il 9 maggio a Roma, prima i bambini, le bandiere, la festa, e poi alle 11 il dialogo con i cittadini, con il commissario Mogherini. Grazie davvero Evelina, buona festa dell'Europa. Grazie, grazie anche a voi. E noi torniamo invece alla musica di Soltanto, torniamo verso questo tour europeo. Cosa ci proponete, Soltanto? Siamo un pezzo del nuovo disco Sky, questa si chiama Nel sogno che mi dai. Solo è fragile, un fermo immagine di un sorriso stanco. Parla all'uomo che non riesce a perdere e ti ha lasciato al largo. Quanta polvere inesorabile cade sopra il fango. Ricordi vaghi per dimenticare le tue bugie sciupate. Affonda bene che ti conviene. Con le ali rotte non si può volare, annaffia il cuore col tuo liquore, basta un sorso a farti addormentare. Nel sogno che mi dai riesco a vedere lei, ma è troppo tardi per poterla amare. Tornerò agli dèi, solo da lì potrei dire agli angeli di starle accanto. Grazie, un grazie Soltanto per questo bel pezzo. Stiamo festeggiando l'Europa oggi, Soltanto. Tu l'Europa la stiamo raccontando soprattutto dal punto di vista del palazzo, no? Con i tanti ospiti sì. Che stiamo avendo. Tu invece l'Europa l'hai respirata, l'Europa della strada, delle persone, degli incontri. Beh sì, ormai sono tanti anni che giro l'Europa suonando per strada, appunto io sono musicista di strada. E in realtà appunto proprio per le strade di Bruxelles, di Praga, di Lione, di Montpellier, di insomma tutte queste città che mi è capitato di visitare, in cui mi è capitato di suonare negli anni, sono nati incontri, esperienze che poi hanno dato vita alle mie canzoni, per cui insomma è proprio da lì che nasce tutto questo materiale. E tu invece che idea ti sei fatta del concetto di Europa, vedendola appunto dal basso? Ma in realtà guarda, l'idea me la sono fatta perché spesso amici mi chiedono in quale città ti sei trovato meglio, in quale città c'è il pubblico migliore, e io non so dare una risposta, perché in realtà come dire, non c'è un pubblico diverso dagli altri. Il bello è che proprio per le strade di queste città si trova, come dire, si incontrano turisti, si incontrano ragazzi Erasmus, cioè tantissime città mi è capitato di trovare comunità di italiani radicate nel territorio, nel tessuto sociale, per cui l'idea che mi sono fatto è che, come dire, siamo molto più cittadini europei di quanto pensiamo. Insomma, che è poi l'Europa delle persone, l'Europa delle storie, quella che ci piace raccontare. Adesso ci fermiamo per il traffico, poi rientriamo, andiamo a visitare l'Istituto Universitario europeo che oggi apre le sue porte. Parliamo di Erasmus con una sorpresa insieme ai ragazzi che stanno partecipando ai giochi organizzati da Erasmus Student Network, ancora soltanto, insomma, questa è l'altra Europa. L'altra Europa. Eccoci qua, come annunciato, stiamo andando presso l'Istituto Universitario Europeo, una tre giorni in, dove sono lavori, sono incontri, sono chiacchiere, sono visite legate allo Stato dell'Unione 2016. Diamo il benvenuto al direttore Dieter Schlenker. Com'è la giusta pronuncia, direttore? Sì, sì, una pronuncia perfetta, sì, Dieter Schlenker, sì, è tedesco, so che è un po' difficile, però si cava. Cosa sta succedendo in questi giorni a Firenze e soprattutto in queste ore? Sì, allora, sì, mi faccio vivo da Villa Salviati, una delle ville prese dall'Istituto Universitario Europeo, che per la chiusura del cosiddetto State of the Union, è una conferenza sia accademica sia politica di due giorni, ieri e altro ieri a Palazzo Vecchio a Firenze, il giorno prima alla sede principale dell'istituto alla Badia Fiesolana a Firenze, discute lo status di questa Unione Europea, e con quest'anno il tema le donne in Europa e nel mondo. Oggi invece, per concludere questi lavori molto seri, molto profondi, abbiamo la giornata aperta di questa Villa Salviati, che è organizzato dal mio dipartimento, l'archivio storico dell'Unione Europea, che si trova qui, una giornata aperta ai cittadini, aperta alle famiglie, per infatti festeggiare insieme questa Europa, che è infatti un'altra Europa, non solo quello dei problemi, delle crisi economiche, crisi di migrazione, però che è uno spazio che viviamo insieme con molta gioia e con molta facilità, e uno spazio dei cittadini europei. Ma guardando gli archivi, insomma, l'Europa di ieri era migliore dell'Europa di oggi? Ma diciamo, l'Europa dalle sue fondazioni nel 1950, dalla dichiarazione Schuman di voler fondere questo nuovo spazio, questa collaborazione europea basato sulla pace e sul benessere, e comunque aveva sempre delle crisi. Posso solo ricordare il periodo sotto Charles de Gaulle, che voleva fare fine a questa entità sopranazionale, che all'epoca si chiama il mercato unico, e poi crisi dopo gli anni 70, la crisi energetica, la crisi economica molto severa anche per l'Italia. Poi negli anni 80, certo, abbiamo tutti un buon ricordo dal rilancio di Jacques Delors e della sua squadra, però crisi ci sono sempre stati, e comunque questa realtà europea va avanti nella sua storia. E qui a Firenze, all'archivio storico, con gli archivi anche interni, segreti, confidenziali delle istituzioni europee, che sono aperte al pubblico, si può studiare questa storia e le sue i suoi crisi, però anche i suoi successi, i grandi successi e i suoi rilanci. Grazie davvero, direttore, buona festa dell'Europa. Grazie anche a voi, una grazie. Buona giornata. A lei. Noi torniamo a Milano, esnitalia.org, per conoscere l'intero programma di questi giochi, l'International Erasmus Games, che si stanno concludendo, credo che sia oggi l'ultima giornata, vero Mattia? Susanna, per te l'Erasmus cosa sta significando, al di là di essere diventata tifosa della squadra di Salerno? Quindi, allora, questo è il mio secondo Erasmus, quindi io sì? Lo so tutto. Sei una professionista dell'Erasmus. Sì, il primo l'ho fatto in Spagna, in Granada. E dopo ho detto no, devo andare a fare l'altro Erasmus, perché non posso restarmi in Polonia. Mm-hmm. Che, allora, è un po' strano sopportare l'equipo che non è del mio paese, perché sono polacca soprattutto, ma i ragazzi di Salerno sono bravissimi, giocando per l'Italia, dando tutto il cuore. Sì, okay, sì. Quindi, insomma, ti piace vincere, ti piace vincere facile, ecco. Speriamo. Allora, la sorpresa è questa: ho avuto la fortuna la settimana scorsa di conoscere Sofia Corradi. Sofia Corradi chi è? È una professoressa, oggi ha 84 anni, insegnava all'Università Roma 3 di Roma, appunto, dalla capitale italiana, ed è la donna che ha inventato l'Erasmus. Maria Piera Ceci di Radio 24 l'ha intervistato, un'intervista che andrà in onda lunedì. Le abbiamo chiesto un piccolo assaggio. Queste sono le parole di Sofia Corradi, che ci parla dell'Erasmus. Lo studiare all'estero è una cosa che giova, ma non è mica un mistero che faccia bene, tant'è vero che quei genitori che sono ricchi, i figli all'estero ce l'hanno sempre mandati, ma dal tempo del Rinascimento. Invece l'idea mia era che questa dovesse diventare un'opportunità aperta a tutti, a chiunque vuole. Si diverte, diventa più maturo, diventa più adulto, diventa migliore, alla fine trova lavoro in metà tempo che chi non è andato in Erasmus, il che non è che i datori di lavoro siano dei benefattori, i datori di lavoro vogliono trovare il meglio. E allora gli erasmiani trovano lavoro in metà tempo. Io la battaglia mia l'ho cominciata nel 69, poi nell'87 è finalmente arrivato l'Erasmus ufficiale dell'Unione Europea. L'hanno soprannominata Mamma Erasmus, e lei con le sue battaglie iniziate nel 69, grazie a lei oggi c'è l'Erasmus, quindi credo che insomma 4 milioni di studenti oggi debbano dirle grazie. Mattia, è questo l'Erasmus, quello che ha detto la professoressa Corradi? L'Erasmus è anche questo, è anche l'opportunità di trovare lavoro in metà tempo, visto che si ha il doppio delle possibilità, proprio perché la prima scelta, quando qualcuno sceglie fare l'Erasmus, è sempre probabilmente una questione di lingua, di conoscenza, di ampliare la propria cultura, l'interesse nell'andare a vivere questa esperienza che è forte e formativa ed è consigliabile. Quindi veramente io da parte mia la ringrazio, ma penso da parte di tutti i ragazzi Erasmus, perché chi più chi meno, chi cerca più di divertirsi e chi più di studiare, è comunque un'esperienza da vivere che ti forma e ti fa crescere, come dice lei, è vero, si matura, si matura. Grazie davvero, mancano proprio una manciata di minuti, il tempo per ringraziare Susanna, per ringraziare Mattia, per averci portato qua la loro testimonianza di erasmiani, come dice Sofia Corradi, i giochi anche oggi con la cerimonia di chiusura, esnitalia.org. Ringrazio Claudia Scatoni in assistenza, Gianmarco Ferronato, la parte tecnica con i tanti microfoni oggi in azione, e Silvia Righini e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata, questa puntata interamente dedicata alla festa dell'Europa, ma le note di chiusura le lasciamo a soltanto in bocca al lupo per il vostro tour e domani questo bizzarro caravan sì, che prenderà il via in un'avventura. Prima ti ho chiesto quando tornerai, la risposta è stata boh. Sì, che è la vera risposta, esatto, dell'artista di strada. Esatto. Con cosa ci saluti? Mi saluto con un assaggio delle Chiavi di casa mia, che è una canzone del mio primissimo disco, e grazie mille per averci ospitato, Fede. Buona Europa. Gli ultimi giorni rinchiusi in casa fra di noi, gli ultimi istanti, gli ultimi momenti tuoi, le ultime notti a consolare. Chissà chi dormirà con te. Se ti mancherà il mio caffè, chissà se hai spento la TV. Chiederò al tempo, e ora davanti c'è un'altra vita, beh, almeno sia diversa da quest'ultima bugia. ma se vuoi parlare ti lascio le chiavi di casa mia e sia. Lui è soltanto, questa è l'altra Europa. L'appuntamento è sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.